tutte deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po', sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito. Pare sì, lo sono qua, sotto cielo avorio, sotto nubi porpora, mille fuochi accesi, mille sassi sulla via, e mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù, un piano lungo secoli. Sexo es su.